Savonarola, il frate che scombussolò Firenze, prose scelte, un programma in collaborazione con Davide N. Giorgio e Radio Big World. Savonarola, prose scritte da Pasquale Villari in italiano ottocentesco e lette oggi in fiorentino corrente da me che alla corrente ci rimasi quando ero bambino, misi due dita nella presa e da allora son rimasto strullo. Serio. Capitolo 3. Piazza San Marco, via Sant'Antonino. Arrivato Savonarola la prima volta a Firenze nel 1482, egli entrò in quel convento di San Marco dove passò poi gli anni più belli e i più infelici della sua vita. E siccome nella memoria dei posteri il nome del Savonarola va inseparabilmente unito a quello di San Marco, così sarà bene dire anche di questo qualche parola. Nel principio del secolo XV essa era una fabbrica miserabile e quasi rovinata, ove abitavano alcuni frati silvestrini, i quali vi menarono una vita così scandalosa che molti ne fecero un richiamo alla corte di Roma. Finalmente Cosimo il Vecchio, avuto il permesso dal Papa, trasmutò altrove i frati silvestrini e concesse il convento ai domenicani riformati della congregazione lombarda. Volle rifare dalle fondamenta il nuovo edificio, dandone l'incarico al celebre architetto Michelozzo Michelozzi, che dopo 6 anni di lavoro ed una spesa di 36.000 fiorini lo condusse finalmente a termine l'anno 1443. Il vecchio Cosimo non era mai avaro quando si trattava di chiese, di monasteri o d'altre opere che potessero accrescere il nome della sua munificenza e dargli ascendente sul popolo. Durante i 6 anni nei quali si era condotta la costruzione del nuovo convento, egli aveva continuamente sovvenuto i domenicani ed ora che ogni cosa era stata menata a buon termine, non si teneva ancora contento se non lo avesse dotato anche d'una ricca biblioteca. Questo però non era né facile né di piccola spesa, trattandosi di raccogliere manoscritti che, specialmente allora, erano saliti a prezzi esorbitanti, ma la fortuna gli porse una buona occasione ed egli seppe valersene. Era morto Niccolò Niccoli, il più celebre raccoglitore di manoscritti che si conoscesse in Europa. Egli era stato uno dei più dotti uomini del suo tempo, aveva consumato un patrimonio di una vita intera a mettere insieme una collezione di codici che era l'ammirazione di tutta Italia. Nel testamento la lasciava ad uso del pubblico, ma la sua donazione restava inefficace perché gravata di molti debiti. Cosimo allora pagò i debiti e, fatta una scelta di alcuni più prestigiosi codici che ritenne per sé, affidò tutto il resto al convento di San Marco. Così venne aperta in Italia la prima biblioteca pubblica, la quale fu tenuta da quei frati sì bene ordinata che si mostrarono degni veramente del dono ricevuto. San Marco divenne quasi un centro di studi e, riunendo la sua congregazione tutti i conventi dell'Alta Italia, da per ogni dove venivano in Firenze i frati più dotti e crescevano lustro al nuovo convento, dove assai spesso gli uomini più reputati di quel tempo erano a conversare coi frati. In quegli anni medesimi, fra Giovanni da Fiesole, più noto col nome di Beato Angelico, venne con profusa mano a spandere su quelle mura gli impareggiabili tesori del suo pennello. Ma tutte queste glorie venivano di gran lunga avanzate dall'avere quei frati avuto per padre e fondatore religioso un santo conosciuto col nome di Antonino, uno di quei caratteri che onorano veramente la specie umana. Difficilmente si trovano nella storia esempi di abnegazione più costante, di carità più attiva, d'un amore del prossimo più evangelico. Non v'è quasi istituzione di beneficenza che egli non abbia o creata o rinnovata in Firenze. A lui si deve il santo pensiero di aver mutato in una istituzione di carità quella compagnia del Bigallo fondata da San Pietro Martire a sterminio degli eretici e che di tanto sangue aveva macchiato le vie e le mura fiorentine. Da allora in poi i capitani del Bigallo, in luogo di bruciare o ferire a morte, raccolgono e soccorrono gli orfani vagabondi. Sant'Antonino fu il fondatore dei buoni uomini di San Martino, che ancora oggi adempiono il cristiano ufficio di raccogliere le oblazioni e portarle alle case dei poveri vergognosi. Sarebbe veramente impossibile raccontare tutto ciò che egli fece in beneficio del popolo, ma al tempo di cui noi discorriamo molti rammentavano ancora averlo visto le 1000 volte percorrere la città o la campagna conducendo un somiero carico di pane o di altro, per soccorrere gli abituri dei poveri che la peste o la carestia aveva desolati. La sua morte, avvenuta l'anno 1459, fu pianta in Firenze come una sventura pubblica e quando nell'82 il Savonarola entrò in San Marco ne trovò la memoria così viva e venerata da tutti che quasi pareva che la sua ombra passeggiasse ancora quei chiostri. Niuno pronunziava il suo nome senza un profondo rispetto, i suoi detti tenevano un'autorità incontrastabile e quando i frati volevano citare un modello di virtù cristiana pareva non sapessero trovare altro nome che quello di Sant'Antonino. In quei primi giorni, perciò, il Savonarola sembrava quasi inebriato di tutto ciò che vedeva: l'amena campagna, le linee vaghe dei colli toscani, il linguaggio sempre più elegante, le maniere sempre più gentili degli abitanti a misura che si era avvicinato a Firenze. Tutto lo aveva predisposto a bearsi in questo veramente fiore delle città italiane, ove la natura e l'arte gareggiano di bellezza. Per il suo animo così pieno di sentimento religioso, l'arte fiorentina era come una musica sacra e attestava l'onnipotenza del genio ispirato dalla fede. Le pitture dell'angelico gli pareva quasi che avessero chiamato gli angeli ad abitare i chiostri di San Marco. Innanzi ad esse il Savonarola era portato in un mondo beato che parevagli il mondo della sua anima. Quelle sante tradizioni di Sant'Antonino, le sue opere di carità vive ancora e tanto lodate tra quei frati più culti e gentili di quanti aveva sino allora conosciuti. Tutto gli faceva sperare di essere finalmente venuto in mezzo ai suoi fratelli. Il suo cuore si apriva quindi perdutamente alla speranza e non rammentava più i tristi disinganni provati, né pensava doverne avere dei nuovi quando fosse restato ancora qualche tempo in Firenze, quando ne avesse imparato a conoscere gli abitanti più da vicino.